seconda puntata dell'intervista che abbiamo realizzato negli studi di Radio Onda Rossa dopo l'iniziativa in ricordo di Valerio Marchi che si è svolta al Tresserrande il 30 settembre. E riprendiamo il discorso appunto con gli ultras del Clapton e da una domanda che riguarda proprio il loro modo di tifare, ovvero se il loro tifo sia più o meno ascrivibile a delle categorie, diciamo anche un po' arraffazzonate come quella dell'ultras all'italiana per dirla appunto così, piuttosto che l'hooligan all'inglese. I think in English football, in like the modern era, people come to football and leave football mostly as individuals and not as a collective. Però quello che abbiamo fatto noi come Clapton in realtà è stato sempre cercare di costruire una comunità e appunto di supportarci l'un l'altra, l'un l'altro. E quindi quello che cerchiamo di fare è qualcosa di totalmente differente da quelle narrazioni, da quelle insomma strategie anche collettive che poi sono rimaste nell'immaginario per quanto riguarda la violenza. The exception that people have in their mind about English football is that the people who do act as a collective are there to cause violence. I think we, as a group, have always been about supporting each other and about creating a supportive atmosphere for our community and specifically our team, because they're all players made up from our community. Quello che penso è che intanto nel calcio moderno quello che succede è più che altro che la gente vive il football, il calcio come individuo, quindi va a vedere la partita e se ne va individualmente, non c'è quel modo di vedere il football come appunto collettività. So choosing to differentiate ourselves, choosing a different path, and creating something that was different, like being noticeably different from that culture. I think that's where the culture at Clapton changed, or moved in that particular direction, rather than the kind of traditional English support. E questo è il motivo per cui noi come Clapton non riteniamo di fare qualcosa all'interno della tradizione del calcio inglese, ma appunto qualcosa di nuovo. I think we're seeing now as well, well, not maybe not seeing now, but it's like an English style of ultra. You know, obviously you in England, like the Methods of supporting their team, and it all kind of gets mixed into the same thing. il fatto che appunto siate una tifoseria molto varia, molto aperta, però ci sono state insomma delle questioni riguardo gruppi invece di tifoserie fasciste. Non so se volete aggiungere qualcosa su questo. I think every supporter group going out there has people who don't like them. Penso semplicemente che ogni tipo di gruppo sportivo, quando va in trasferta, trova dei gruppi che non lo amano molto. And there are always going to be rivals and people who don't like what you do. We've had some contact with people who oppose anti-racism and other like being against other forms of discrimination. But you know, we are now kind of learning more how to kind of organize better to keep our supporters safe. We don't go out there looking for violence, but we are now kind of we're now aware and alerted to like the threats that can happen when we travel to certain places, particularly for away games. E quindi ci siamo dovuti confrontare anche con persone che, per esempio, si oppongono all'antirazzismo e che, per esempio, non apprezzano anche, insomma, la nostra lotta contro le discriminazioni in generale. Però quello che stiamo cercando di fare, insomma, è cercare di crearci un ambiente sicuro in cui, insomma, tutelato per quanto riguarda appunto la nostra possibilità di tifare. L'ultima domanda è riguardo la società. Cioè, la vostra società comunque ha un proprietario, diciamo, capitalista, con anche dei problemi con la giustizia riguardanti, immagino, questioni economiche, eccetera. Qual è il vostro rapporto con appunto la proprietà della società per cui poi voi fate il tifo e vi adoperate anche, per esempio, per pulire il campo, eccetera, eccetera? So A lot of people come to Clapton, and it's part of the reason why we started going, because going to higher level football was too expensive. E un sacco di persone vengono a vedere il Clapton anche perché hanno problemi economici e quindi andare su serie più alte era impegnativo economicamente, ed è uno dei motivi per cui ci andiamo anche noi. It's very simple. We still pay a relative large amount of money to go. We pay £6 to go to a game. Noi ancora paghiamo comunque parecchio per vedere una partita, perché paghiamo £6 appunto ogni partita per vederle. Which is a lot for some people, and for other people it's not a lot. E soprattutto £6 o comunque i soldi che vengono utilizzati per comprare una tessera eccetera eccetera sembrerebbero poco, relativamente poco, ma se si poi fa un rapporto con gli stipendi in realtà sono moltissimo. And there are concessions, students get in for £3, and if you're a season ticket holder you get in for a London team, you get in for, I can't remember how much it is. It's funny because £6 to the football supporter, the person who's been to a lot of games before, isn't a lot of money. But when you suddenly say £6, if you look at like wages, it is actually a lot of money relatively. But because we're used to like the expensive prices and we go £6, it's not that much compared to other games, and you're getting something more from it. You see that it's okay. We have a fund, as I said earlier, if certain people like can't afford to come, we will try and help them to get in for free, or like subsidize part of their ticket. Quindi abbiamo realizzato un fondo che viene appunto utilizzato proprio per far venire le persone che non possono permetterselo ai giochi, alle partite, non pagando o pagando molto meno. When we first started coming, my first game, there were 7 people there. I said this earlier, but 7 times 6 is, 42, to think about that. Now we have crowds of maybe 400, 500. Times it by 6, that's a huge difference. That money, we're not seeing going back into the club. The football players, the people who play, for us every week, they don't get any money from playing. So che l'ho già detto prima, ma quando ho iniziato a vedere il Clapton eravamo in 7 e successivamente siamo diventati 400-500 a partita, e di tutti quei soldi niente va nel club in realtà, perché poi per esempio i giocatori non vengono pagati. Often they have to pay transport, they have to pay for training, for things like that. They have a cold shower, although now this season they don't have a cold shower. E anzi le persone, appunto i giocatori, non devono addirittura pagarsi le trasferte, hanno la doccia fredda e insomma nessuna facilitazione per quello che fanno. But we're not seeing any improvements from the extra, let's just say £3,000 every other week that is coming into the club. And for us, that's something that's a real issue. Like, where is this money going? This money should be spent on making the facilities better, not just for the players, and making sure they're not losing money, it's not costing them anything, but making sure that the ground is accessible for wheelchair users. Quindi riteniamo che questo sia uno dei nostri più grossi problemi, anche perché vorremmo che questi soldi venissero impiegati, insomma, per migliorare sia le cose relative ai giocatori, quindi appunto la doccia o quello che è, piuttosto che quello che riguarda invece il tifo, quindi ad esempio la famosa scaffold. There are lots of sharp objects around the ground. Like, it's, if you look at photos of it, it looks like an absolute mess. We love it because we know it, it's our home, but it's quite dangerous. Like, there's many bruises, like cuts and things like that, from sharp poles here and there, from like a shelter that's kind of collapsed next to the scaffold. it's not safe, and it could be money could be put into that to make it a bit nicer. Anzi, sulle gradinate, insomma, è anche pericoloso perché ci sono oggetti, altre cose così. Per noi è comunque carino, l'apprezziamo, lo amiamo perché è casa nostra, però per insomma, in realtà è pericoloso. There is also a pub just next to the ground that it's too late now, but money could have been, the money that was coming in could have been invested into that to make it a community space yet again, a community pub for the local community, but that hasn't happened. Insomma, anche ci facciamo anche lividi e scoriazioni varie, quindi insomma non è per niente sicuro il campo. Fan-owned clubs in the UK or in England seems to be different to Europe. It's not necessarily the case that a fan-owned club is always a good thing. It doesn't always mean that it's political. Sometimes it's just about the football. But we're trying to... La situazione inglese è comunque diversa rispetto a quella dell'Europa. E ovviamente non vuol dire che un pub sia per forza una cosa politicamente interessante, anzi, però appunto può essere un luogo sociale. Find out where that money is going, and there is a struggle, not a struggle, there is a process to, we would love to own the club, like we would love to make it something better for the community. There's only so much we can do for fans, and there's only so much we could do, but if we had the club and had the ground, like we know we could make like proper permanent good positive changes within the community. Quello che stiamo cercando di fare è capire dove vanno, insomma, questi soldi che appunto non sappiamo dove vadano, e quello che vorremmo sarebbe comunque riuscire a ottenere la squadra e poter gestire tutto autonomamente, e pensiamo che questo potrebbe essere un importante lavoro per la comunità. But right now it's not an option. Ma al momento è impossibile. Yeah, so like football at our level, it's amateur. It's maybe some players get paid a very small amount, but there is a disconnect between a lot of people who give their time for free, they give their skills for free, and they give, and that's the players, that's the people who run the teams, the people who wash the kit, the people, and the people who turn up and cheer on the players. E con questo si conclude questa intervista appunto agli Ultras del Clapton, che ringraziamo ancora una volta di essere stati insomma con noi, essere venuti a Roma e aver partecipato all'iniziativa Tre Serrande, di essere venuti a farsi intervistare negli studi di Radio Onda Rossa. And everyone is giving their time for free, the supporters are paying their money, and the ideal, if everyone is kind of pulling in the same direction, if everyone is going to, is the club should improve. But at the moment our club doesn't improve because the money is not being used productively. So I think in the ethos of the football that we choose to watch at the level, then it should be the money should be communal, but at the moment it's just purely for profit of a few individuals. Thank you. Thank you very much. Cheers.